Settima edizione per il premio Alberghini, che dal 2015 promuove e sostiene i giovani talenti di musica strumentale, vocale e i nuovi compositori. Diamo un paio di date: è un bando che comincerà il 21 ottobre, terminerà il 24 febbraio e le selezioni invece cominceranno il 24 marzo per terminare il 2 aprile. Sono col direttore artistico Cristiano Cremonini per parlare delle finalità soprattutto di questo premio, che quest'anno ha allargato la sezione vocale anche al repertorio operistico, ad esempio. Sì, dunque è un concorso che era nato esclusivamente per strumentisti. Io da cantante lirico ho lavorato per 20 anni nelle fondazioni liriche, ho sempre sentito la necessità di dare un po' più di attenzione al settore degli strumentisti, perché è inevitabile che quando c'è una voce, quando c'è un cantante, lo strumentista passi in secondo piano. Ecco, questa cosa non mi stava bene, anche perché i concorsi di opera di lirica sono tantissimi, molti meno sono quelli dedicati agli strumenti. E quindi questo è stato il motivo per cui abbiamo lanciato questo progetto, che poi è diventato un grande progetto regionale. Regionale perché, cioè, noi vogliamo restare regionali, noi vogliamo proprio valorizzare i talenti della nostra regione, quindi l'ambizione non è quella di diventare nazionale, internazionale, ma proprio di valorizzare quelli che passano, e non solo quindi i residenti, ma anche magari studenti stranieri che vengono in Italia a studiare, quindi in quella particolare annata in cui c'è il bando possono iscriversi perché studiano in una scuola all'interno della regione. Ecco, però dicevi appunto ci sono addirittura 7 sezioni di strumenti per dare risalto alla musica strumentale, ai talenti strumentali. Sì, cerchiamo di coprire un po' tutte le tipologie della tradizione classica degli strumenti. Ho sentito la necessità anch'io di fare emergere anche la voce e quindi da 3 anni, questo è il terzo anno, abbiamo aperto una sezione di musica vocale da camera, quindi repertorio cameristico, quindi non solo voce e pianoforte, ma tutto ciò che viene scritto per voce e strumenti. C'è un organico ben prestabilito sul bando, sul regolamento, e da quest'anno invece, ecco, abbiamo esteso anche al canto lirico. Canto lirico però solo voce e pianoforte, è aperto a tutti i registri vocali, ovviamente, e questo insomma credo sia importante, perché ovviamente il patrimonio operistico è immenso e quindi insomma era giusto anche a un certo punto inserire la lirica. Venendo proprio alla finalità del bando, vorrei chiederti, per un ragazzo che studia musica, perché potrebbe essere determinante iscriversi a questo premio? Beh, determinante innanzitutto perché è un momento di grande condivisione. Io che ho passato il periodo delle audizioni, perché sono stato cantante lirico e quindi costantemente sotto esame, il cantante lirico è costantemente sotto esame, ci sono audizioni ogni anno per nuovi ruoli e quindi so cosa significa partecipare a un'audizione. Abbiamo cercato di rendere questo momento il più piacevole possibile, quindi è un momento di condivisione, posso usare anche il termine di serenità. E io cerco di scherzare proprio con i ragazzi poco prima della selezione, dell'audizione, e lo faccio proprio per rompere il muro della tensione che a volte si crea, no? E perché facendoli sorridere, e quindi la tensione magicamente cade. Questo è un mio modo. Infatti i ragazzi non si immaginano mai che io sono il direttore artistico, no? Pensano insomma che sono un collaboratore che così ogni tanto fa qualche scherzo, così. Quando poi sanno che sono il direttore, ma maestro le chiedo scusa, perché magari mi danno subito del tu, e questo mi fa molto piacere, anche questa barriera l'abbiamo, maestro, ma no, dico no, se no mi fanno poi sentire troppo vecchio, e quindi dico no, diamoci del tu ragazzi, nessun tipo di problema. Quindi però questo... dopo questo percorso ci sono, oltre ai riconoscimenti e alla crescita personale di cui tu stavi parlando, ti ho interrotto un attimo, però ci saranno anche dei momenti proprio di sostentamento, tipo ad esempio borse di studio e la possibilità anche di entrare effettivamente nel lavoro della musica. Sì, è proprio la caratteristica del premio Alberghini, quello di dare la possibilità ai ragazzi di mettere già un piede nella professione, e questo lo possiamo fare grazie ai nostri partner Teatro Comunale, Fondazione Musica Insieme, Accademia di Imola, ma sono tanti, è una rete, siamo riusciti a creare questa rete di collaborazione molto stretta, e quindi ogni istituzione ogni anno ci chiede di segnalare loro dei ragazzi che noi riteniamo idonei per essere coinvolti nei cartelloni di queste grandi istituzioni. Credo sia una grandissima occasione che offriamo, perché i ragazzi mettono proprio subito un piede all'interno della professione, del mondo dell'arte. È effettivamente, oggettivamente, una grandissima opportunità. Per festeggiare tutto questo ben di Dio, domenica 23 ottobre, cosa c'è? Sì, domenica 23 ottobre nel foyer Espighi del Teatro Comunale c'è il concerto di alcuni dei vincitori delle due precedenti edizioni. C'è questo patto con il Teatro Comunale e ad ogni edizione vengono selezionati alcuni dei vincitori e che si esibiscono puntualmente al Comunale. Quindi 23 ottobre ore 11 ci sarà questo festeggiamento, possiamo dire, del premio Alberghini. Eh sì, è proprio una festa. Sono 12, abbiamo selezionato 12 ragazzi, 6 per ogni edizione passata, quindi la quinta e la sesta edizione. Ci sono pianisti solisti, ci sono chitarristi, ci sono delle formazioni molto interessanti. C'è una formazione chitarra e mandolino che è straordinaria, c'è un duo pianoforte voce, un soprano e pianoforte che è straordinaria, che farà repertorio del Novecento. È un concerto che, diciamo, rappresenta bene tutte le sezioni di strumento del nostro concorso.